24. La storia. Era molto presto, le 5-6 del mattino. Ad un tratto si è sentito urla, gridi, pianti, il pianerottolo della scala. Gente che strillava, urlava, io non capivo niente. E io ho aperto la finestra per guardare, perché la mattina mi piaceva guardare fuori. Quanto ho visto una Svizzera e tedeschi lungo l'ospedale a distanza di meno di mezzo metro uno dall'altro, tutti coi mitra spianati. Allora, mio padre si era alzato quella mattina e sentiva dei rumori e ci ha svegliato. Allora mio padre fa, dice, zitti, sento tanto rumori, che sarà, che non sarà? Ah, mo, sai che i tedeschi che si ritirano. Saranno i tedeschi che si ritirano. Non faccio in tempo a dire a mamma, girami, ma vieni a vedere. Che hanno bussato alla porta. Mia madre va aprì, si sono presentati i fascisti, SS e tedeschi, insomma, tutti insieme. Apri la porta, piano piano scricchiolia. Non erano i tedeschi. Erano i tedeschi, ma tutti armati. E poi entravano, non è che entravano come agenti umani, gente normale, che i fucili già puntati. Mise subito la canna del fucile, delle mitra qui sullo sterno e mi disse raus, raus, raus. Allora io capì, insomma, che questi non scherzavano. Che dicono loro in tedesco? Una specie di inglese, no? Come? Lost. E ci ha fatto alzare, vestite, a gesti, per dire, non è che parlava l'italiano. Raus! Los, ma ora non manda fone! Raus! Ci doveva essere uomini. Allora mio padre era appena entrato in bagno, si è trovato che usciva. E poi cercavano altri uomini, ma mio fratello, il più grande, c'aveva 9 anni, 11 anni, manco 9, 11. E il più piccolo c'aveva 4 anni. Quale uomini? Hanno preso mio padre. Il 17 aprile del 44 alle 5 del mattino l'esercito tedesco effettua il rastrellamento in una borgata alla periferia sud-est di Roma, il Quadraro. L'ordine è di arrestare tutti i maschi tra i 16 e i 55 anni e proviene direttamente dal comando dell'SS. Ma perché passare al setaccio un intero quartiere? Chi e che cosa cercano i soldati della Wehrmacht? E soprattutto quale destino attende quegli uomini strappati all'alba dalle loro case? Agli uomini dell'epopea partigiana si sostituiscono per una volta uomini e donne di borgata. Tra bombardamenti, attentati e ritorsioni qualcuno ha lottato contro l'occupazione nazifascista, altri, più semplicemente, hanno cercato di sopravvivere giorno dopo giorno. Tutti in qualche modo sono stati testimoni del lungo e doloroso cammino verso la liberazione. A un certo momento qualcuno che c'aveva la radio, ma era una rarità, è finita la guerra. Ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. Oh, sentite un po'! Arriva dal Quadraro, scesi dal tram e lì sulla fermata del Quadraro c'era la mia fidanzata con le sue amiche, con i suoi amici. Erano un gruppo di ragazzi che stavano facendo festa perché era finita la guerra, no? Tutti contenti. E mazzo c'hai pure io, è logico, no? Baldoria quella sera, ormai per noi è finita, per noi stava a posto. Ma se quella contro gli anglo-americani è una guerra finita, un'altra guerra ben più dura sta per cominciare, quella contro l'ex alleato nazista. Hitler del resto ha previsto l'eventualità di un tradimento italiano, Pochi minuti dopo l'annuncio dell'armistizio, l'esercito tedesco entra in azione contro gli ex alleati in Italia e nel resto dell'Europa occupata. I soldati italiani, invece, più di un milione, sparsi su tutti i teatri di guerra, sono colti di sorpresa e sono allo sbando. Continuiamo il racconto dopo la viabilità. BMW Freightride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta... Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Dopo l'armistizio del 43, finita la guerra contro gli angloamericani, non si fa in tempo a festeggiare. Un nuovo durissimo conflitto sta per attraversare il nostro paese, quello contro l'ex alleato tedesco che cerca di penetrare anche a Roma, avanzando dalle periferie. Gli abitanti del Quadraro assistono in prima persona agli scontri. C'è stata una sparatoria con tanti morti. Questi morti non sapevano dove metterli. Hanno legati su un carretto, 3, 4, 5 per volta, passavano qua davanti e qui c'era il sanatorio. Li portavano qui in camera mortuaria. Eravamo proprio, cioè, senza paura, io. Si sono tutti accostati a vedere che tutte queste persone morte con i bracci che gli dipendevano uno del pano di là, perché ammucchiati così come i salti. 10 settembre 1943, a Porta San Paolo si tenta un'estrema resistenza. Ai reparti regolari dell'esercito italiano si uniscono spontaneamente gruppi di civili. Romano Levantini quel giorno è lì. Arriva a Porta San Paolo poche ore dopo la fine degli scontri. E c'erano questi carri armati nostri, piccoletti, quelle scatolette. Questa gente dentro, io guardavo, per curiosità, vedevo sempre che c'erano dei morti con un buco in fronte. Però non c'era nessuno per strada. Ho seguitato, sono arrivato alla piramide e c'era sto cannone ancora fermo. Poi ho guardato in giro. Sì, e lì su un giardino, diciamo, dove c'è la posta, e tutti questi cadaveri, tutti bucati in fronte. Quando si muore di morte violenta, si resta tutti con gli occhi aperti. Posso dirvi questo, tutti quelli che ho visto che sono stati uccisi di colpo, stanno come sorpresi. Ore 16. Con i tedeschi oramai in centro città, il generale Giorgio Carlo Calvi firma la resa delle forze italiane. Comincia la storia di Roma, città occupata. Sisto 40, abitante del Quadraro. Ho pensato, dico, ecco, noi abbiamo festeggiato la fine della guerra. E qui invece la guerra ancora non solo seguita, ma per noi stava incominciando allora. Dopo la battaglia di Porta San Paolo, per Roma e per i romani inizia la fase più drammatica e i primi a rendersene conto saranno proprio gli abitanti del Quadraro, un gruppo di case isolate sorte spontaneamente all'estrema periferia sud-est di Roma, quasi in aperta campagna. Dopo la battaglia di Porta San Paolo, per Roma e per i romani inizia la fase più drammatica. E i primi a rendersene conto saranno proprio gli abitanti del Quadraro, un gruppo di case isolate sorte spontaneamente all'estrema periferia sud-est di Roma, quasi in aperta campagna. Il Quadraro oggi è un agglomerato urbano che si estende senza soluzione di continuità dal centro alla periferia di Roma. Ma non è sempre stato così. Negli anni della guerra appariva come un quartiere con poche case sparse in aperta campagna. Armando Petrucci, abitante del Quadraro. Era una borgata di lavoratori, gente che lavorava, gente semplice. Poche migliaia di abitanti, per lo più operai e artigiani. Molti immigrati dal sud Italia, un quartiere povero e popolare sorto all'ombra dell'acquedotto romano, antica memoria di un passato più glorioso. Vanda Prosperi, Alda Giacopetti, abitanti del Quadraro. Era un piccolo paese praticamente, non è che ci conoscevamo un po' tutti. Tutti voraci. Tra il settembre del 43 e il giugno del 44, fino all'arrivo degli alleati, il Quadraro è destinato a diventare una vera e propria spina nel fianco per l'occupante tedesco. L'estrazione popolare dei suoi abitanti del resto ne ha fatto nel tempo un terreno fertile per l'opposizione antifascista. Ora però c'è di più. Con il fronte di combattimento fermo a sud della capitale, è la collocazione geografica del quartiere a renderlo strategico per la resistenza. Situato nel quadrante sud-est di Roma, il Quadraro è al centro di alcune tra le più importanti vie di comunicazione e rifornimento dell'esercito tedesco. A sud corre la strada consolare della Tuscolana, a ovest passa la via ferroviaria, a nord-est c'è l'aeroporto militare di Centocelle, fondamentale snodo logistico. A est, infine, c'è Cinecittà, che dopo l'occupazione viene in parte utilizzata come quartier generale della 14ª armata della Wehrmacht. Vittorio Vidotto, storico, e poi sentiamo Erardo Morici, abitante del Quadraro. Quelle zone della città erano le zone dove l'attività militare antitedesca era fra le più forti, perché insistevano sulla possibilità di colpire il tedesco nei suoi spostamenti. La zona intorno a lui era piena di giovani che stavano in clandestinità e che erano e si consideravano partigiani. Dopo l'8 settembre avevamo cominciato a collaborare con Basilotta, che faceva queste, diciamo, queste riunioni per creare una banda di partigiani. Così Giovanni Ricci, ex partigiano. Gioacchino Basilotta è un piccolo imprenditore locale, proprietario di un saponificio in via dei Quintili al Quadraro. Questa la sua voce, intervistato nel 1964. Ecco, proprio qui sotto c'era una botola di legno. Noi scendevamo giù con una lunga scala. In quelle grotte noi conservavamo le nostre armi e anche l'esplosivo per il sabotaggio delle ferrovie e del telegrafo. Noi cominciamo l'attività con una formazione GAP, cioè Gruppi Azione Patriotta, perché i GAP non erano considerati partigiani, ma dei patrioti. Facciamo delle riunioni, Basilotta ci informava come se dovevamo comportare, se dovevamo comportare. E facciamo questi atti di sabotaggio. Ben presto l'alto comando tedesco si rende conto che una delle aree di maggiore attività partigiana nella capitale è rappresentata proprio dal Quadraro. Centocelle, incursione all'aeroporto, trafugati 20 fucili e un mitra. Zona Capannelle, attaccato un camion, ucciso un soldato tedesco. Via Casilina, incendiati due camion, uccisi i conducenti. Quarticciolo, assaltato un deposito d'armi, trafugati fucili, mitra e bombe a mano. Torre Maura, attaccata la caserma, feriti due soldati tedeschi. Ponte del Quadraro, attaccata pattuglia tedesca, un ferito. Via Prenestina, distrutta una postazione telefonica. Via degli Angeli, uccisa una sentinella tedesca. Era buio, stava in bicicletta, veniva dalla parte della via Tuscolana cantando Lili Marlè. E noi subito dopo il ponte della ferrovia l'avevamo bloccato, ma penso ci avrà avuto una trentina d'anni, hai ragione, ma non potrei dire con precisione. E sono stato male una settimana perché quella era la prima persona che vedevo ucciso. Così Paolo Morettini, ex partigiano. Le azioni partigiane mettono sempre più sotto pressione l'apparato bellico tedesco. Così parlava del quartiere Friedrich Mollhausen, console tedesco a Roma. Il comando della città era dell'opinione, più volte manifestata, che quando qualcuno non riusciva a trovare rifugio o accoglienza nei conventi o al Vaticano, si infilava al Quadraro, dove spariva. Volevano finirla una buona volta con quel nido di vespe. Ci chiamavano un nido di vespe per questo, perché si pungeva e si scappava. Però non c'era mai capitato un conflitto a fuoco vero e proprio. Forse avevano timore anche di stare in un quartiere pieno di partigiani e per cui non si vedeva mai lì passare la polizia fascista o i tedeschi, insomma. In genere non era un territorio attraversato, diciamo così. Il 23 marzo del 44 in via Rasella, nel pieno centro di Roma, un ordigno piazzato dai GAP esplode al passaggio del reggimento dell'SS di Bolzano. 33 soldati perdono la vita e da Berlino parte l'ordine di immediata rappresaglia. Saranno fucilati 10 italiani per ogni tedesco. Il colonnello dell'SS Kappler, addetto alla sicurezza su Roma, redige una lista di oltre 330 persone. Il giorno dopo, in una cava sulle Ardeatine, l'ordine viene eseguito. Paolo Morettini, ex partigiano e Sisto 40, abitante del Quadraro. All'epoca non si poteva andare a Fossa Ardeatina perché se arrivavano i tedeschi che ti trovavano là, ti arrestavano. Ma era stata una cosa orrenda. Io rientravo appunto dal lavoro la sera, scesi da, sempre lì alla fermata del solito cinema Quadraro e incontrai dei miei amici che mi dissero: hai saputo quello che è successo ai Forze Ardeatine? No, che è successo? Hanno ammazzato così, così, così. Ormai è evidente che le forze tedesche avrebbero in futuro reagito in maniera massiccia su ogni attacco da parte dei partigiani e dei gappisti. E il commento dello storico Lutz Klinkhammer. All'indomani della strage delle Fosse Ardeatine a Roma è travolta dall'errore, dallo sgomento, dalla paura. Due settimane dopo, anche al Quadraro, si verifica un episodio destinato a cambiare le vite dei suoi abitanti. Lo raccontiamo subito dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Oggi stiamo raccontando una storia ambientata al Quadraro, quartiere della periferia romana, quando la città di Roma è occupata dai tedeschi. È una storia che vede come protagonista un personaggio ambiguo, si chiama Giuseppe Albano, ma tutti lo conoscono come il gobbo del quarticciolo. Ma chi era e qual è stato il suo ruolo in questa storia? Lo chiediamo allo storico Alessandro Portelli. Il gobbo del quarticciolo in moltissimi racconti è rimasto come una specie di figura di brigante sociale, cioè che ruba i ricchi per dare ai poveri. Lui è una figura molto più ambigua, molto più complicata, che verrà anche manipolato politicamente in maniere pesanti nel dopoguerra. Il gobbo era deformato nel corpo, ma il viso era un viso carino, pulito, si presentava bene, insomma. Era Armando Petrucci, abitante del Quadraro. Il gobbo si è già reso protagonista di numerose azioni di sabotaggio contro i tedeschi. Frequenta spesso il Quadraro perché è amico dei figli di Basilotta, capo delle forze partigiane proprio al Quadraro. 10 aprile 1944, è lunedì di Pasqua. Tre soldati tedeschi, la cui identità resterà sempre ignota, si fermano per un bicchiere all'osteria di Gigetto, sulla Tuscolana, esattamente a metà strada fra il Quadraro e gli stabilimenti di Cinecittà. Armando Petrucci in quel giorno di festa lavora proprio lì, l'osteria è di suo padre. C'erano quattro tavoli e in uno di questi quattro tavoli erano seduti i tre tedeschi. Poco dopo all'osteria si presenta anche il gobbo e insieme a due amici del Quadraro, Franco Basilotta e Giovanni Ricci. E quando siamo entrati, noi ci siamo messi a sede, io a quelle spalle al muro, e di fronte c'erano questi tedeschi e c'erano le armi sopra la rastrelliera, l'avevano appoggiate là sopra. Il gobbo è già noto alle forze di sicurezza e sa bene che la sua deformità lo rende facilmente identificabile. Io ho detto: guarda che mi sa che t'hanno riconosciuto. Lui ha detto: ma è impossibile, guarda che ti hanno riconosciuto, dai che parlano fra di loro, bu bu bu bu bu bu. Dice: vabbè, dice, allora vado a caricare le pistole. Lui aveva due berette, aveva due 7.65, mi ricordo. Come è venuto a sede, questo ha fatto l'atto così, l'ufficiale che c'avevo di fronte, Peppi Armitra. E lì si trattava o noi o loro, c'era discussione. Ancora a volte sento quegli spari, erano spari che ti colpivano il cuore proprio. Cadono due diciamo sotto il tavolo, un terzo che era, io lo ricordo perché ero dall'altra parte in cucina, lui si alzò e con un fiotto di sangue dalla bocca venne verso di noi, stramazzò davanti a me, occupando tutta la cucina. Loro immediatamente hanno lasciato l'osteria e se ne sono scappati, come tutte le persone che erano in quel momento sedute nei nostri tavoli. Siamo tornati lì e piangeva, dice: ma perché stai piangendo? Dice: non lo so, dice, perché mo, dice, lì al quarticciolo mi conoscono, qua, ma qui non ti conosce nessuno. Però dopo due giorni è andato via da lì e se ne è ritornato un'altra volta al quarticciolo. Il Gopopo divenne famoso, forse già lo era famoso, ma divenne famoso anche a causa di quell'episodio. Ricci e Basilotta tornano al Quadraro, il Gobbo è con loro. La notizia della sparatoria si diffonde in tutta la città. All'attacco partigiano in via Rasella è già seguita la durissima rappresaglia delle Fosse Ardeatine. Adesso, con altri 3 soldati tedeschi uccisi, fra la gente cresce la paura. Giovanni Ricci e Wanda Prosperi. Ho pensato che da un momento all'altro i tedeschi si sarebbero rifatti. Si sapeva che loro dicevano che ogni tedesco ammazzato erano 10 italiani che venivano fucilati, così era il detto all'epoca. Però, francamente, nessuno pensava che potesse toccare il Quadraro. Dopo la sparatoria all'osteria sulla Tuscolana, il Gobbo fa perdere le sue tracce, ma quell'episodio potrebbe essere all'origine dell'azione militare che sta per sconvolgere la vita degli abitanti del Quadraro. Passano giorni nel segno dell'incertezza, poi il comando tedesco prende una decisione. Dopo la sparatoria all'osteria sulla Tuscolana, il Gobbo fa perdere le sue tracce. Ma quell'episodio potrebbe essere all'origine dell'azione militare che sta per sconvolgere la vita degli abitanti del Quadraro. Passano giorni nel segno dell'incertezza. Poi il comando tedesco prende una decisione. Operazione coordinata dal comando SS. Nome in codice Untermina Walfisch. Operazione Balena. Data fissata per l'operazione 17 aprile 1944, un lunedì. Ogni dettaglio viene pianificato con cura. Si entrerà in azione all'alba, quando tutti dormono. 4 postazioni blindate ai 4 angoli del quartiere. I soldati saranno divisi in squadre, ognuna di 5 uomini, e faranno irruzione in ogni casa del quartiere. Tutti i maschi tra i 16 e i 55 anni verranno prelevati e trasportati al cinema Quadraro per una prima identificazione. All'operazione partecipano militari italiani e tedeschi. Oltre alle SS ci sono i miliziani fascisti e poi alcune unità appartenenti alla 29esima divisione Panzergrenadier. Questi Panzergrenadier sono in Italia dal 1943, hanno combattuto gli alleati nella sacca di Anzio. Alle 3:30 del mattino sono i primi a radunarsi nel buio, in silenzio, aspettano a bordo dei camion. Fari e motori spenti. Alle 4:30 il Quadraro è circondato. Vengono inseriti i caricatori, tolta la sicura alle armi. Alle 5 si entra in azione. Wir werden im Morgengrauen angreifen, aufnehmen und zunächst in das Kino Quadraro bringen. Ausschreitungen eingreifen können. Klar? Ja. Okay. Si era sparsa la notizia una mezz'ora prima che stavano arrivando i tedeschi per fare questa operazione. E allora tutti nei caseggiati tutti intorno, ognuno cercava di scappare nelle cantine, nei box in mezzo agli orti. È stato un fuggi-fuggi, però è un fuggi-fuggi che in parte è stato vano, perché questi hanno fatto un rastrellamento a tappeto, cioè ogni luogo che era accessibile è stato controllato. Io e il marito di mia sorella, c'era un tubo discendente del terrazzino sopra, stavamo fermi lì, mutande. Si è affacciato un austriaco, un sergente, e lui mi ha visto a me. Lui si è affacciato col mitra, ha detto: via, via, camerati, qui non c'è nessuno, via, via, via. Ci ha avuto salvato. E andavano in tutte le case e portavano via. E dove erano andati, mettevano un segno sulla porta, in maniera che gli altri sapessero che già lì c'erano stati. Mettevano una X sulla porta con il gesso. Mio padre è rimasto frastornato perché praticamente non si aspettava una cosa del genere, cioè è come uno che casca dalle nuvole, che dice: ma che è successo? Non ha fatto neanche in tempo a uscire dal bagno, l'hanno preso e l'hanno portato via. cioè come se manco senza giacca, senza niente, come sono trovato. Mi ricordo la figura un po' imponente con questo mitra tenuto come si tenevano i mitra così davanti. Poi ovviamente questo ha alzato le lenzuola e poi è stato un attimo, perché io poi mi sono svegliato, mi ha alzato le lenzuola, ho visto sta figura che si è guardata un po' intorno e poi è uscito dalla stanza. Mio padre aveva avuto sentore proprio da qualcuno che girava dicendo i tedeschi, e allora mio padre si è allertato, si è vestito di corsa, ha chiamato il cognato Giovanni nella stanza accanto: Giovanni, scappa, scappa, scappiamo. Giovanni invece ha ritenuto di non fuggire. Ma io sono delle imposte di consumo, io ho la divisa. Si era messo una divisa, c'era pure la pistola lì appesa. Ma io no, devo andare ad aprire l'ufficio, io sono del comune. E il tedesco addirittura l'ha preso a calci. Via, raus! C'era stato il fatto del ghetto, le fosse ardeatine e cose varie. Allora dopo fai mente locale e dici, beh, questo, qui sta succedendo questo e questo, capito? C'era l'idea che, brutta, perché si sapeva che avrebbero portati dove pare, insomma, in Germania, in Polonia. Mano a mano che ci rastrellavano, passava un camion a mo' di nettezza urbana, ci caricavano e ci portavano al cinema Quadraro, ci caricavano e ci portavano dentro al cinema Quadraro. E lì il cinema pieno, zeppo, che non c'entravamo più, ci davano le spinte per farci entrare, trovammo delle ragazze italiane dove ci facevano fare delle file per ogni tavolo, dove queste ragazze ci chiedevano le generalità, l'età e il mestiere, al che io gli dissi che facevo l'elettricista. In poche ore i tedeschi portano via oltre 1000 persone. Ma se l'intenzione era colpire i partigiani del Quadraro, allora l'obiettivo è fallito. Sisto 40, abitante del Quadraro. Quella mattina che fecero il rastrellamento, i tedeschi commisero un grave errore. L'ospedale Ramazzini, confinante con il Quadraro, non viene controllato. I soldati tedeschi gli girano intorno, ma nessuno di loro mette piede dentro l'ospedale. Banda Prosperi e Sisto 40. Il rifugio dei partigiani era lì, loro cercavano il nido di vespe era lì, a reparto malattie, proprio quelli dei terminali, che si sa che i Ramazzini erano tubercolotici. C'erano i partigiani con tanto di cartella clinica fasulla, contraffatta, e c'erano anche un arsenale dentro l'ospedale. Hanno rischiato di brutto pure i professori che stavano là dentro, perché era un rischio anche per loro. Per cui non hanno preso il nucleo dell'antifascismo della zona in quanto tale, perché probabilmente chi faceva anche attività di resistenza sapeva di non poter circolare tanto liberamente. Abbiamo sentito la storica Anna Balzarro. L'operazione Balena dunque si è conclusa, e anche se molti dei partigiani del Quadraro sono sfuggiti al rastrellamento, la Wehrmacht si accinge a deportare quasi 1000 residenti del quartiere. Il tutto, è bene ricordarlo, appena 7 giorni dopo la sparatoria all'osteria del Gigetto. Ma il triplice omicidio commesso dal gobbo del quarticciolo è davvero la causa che ha scatenato il rastrellamento? Lo scopriamo subito dopo la viabilità. Scegliete il libro. Mettete tra una pagina e l'altra le scene del film. So che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. E sottolineate i passaggi chiave con le canzoni della colonna sonora. Tutto questo è Audiogrammi. Ogni domenica alle 20:15 vi raccontiamo una storia tratta da un libro e trasportata dal cinema alla radio. Audiogrammi. Domenica alle 20:15 su Radio 24. Anche in podcast su radio24.it. Mix 24. La storia. Bentornati a Mix 24. La rappresaglia che i tedeschi organizzano al Quadraro si è conclusa. Ma una così dura azione è davvero l'effetto dell'uccisione dei tre soldati tedeschi all'interno dell'osteria del Gigetto? Esiste una relazione tra quell'omicidio e l'operazione Balena? Per lo storico Lutz Klinkhammer la risposta è sì. Ma per gli abitanti del Quadraro quella è stata solo una scusa. Secondo me il legame tra arrestamento e attentato ai soldati tedeschi in osteria c'è stato. E abbiamo anche una documentazione tedesca che ci dà degli indizi abbastanza chiari in questa direzione. La rappresaglia fu fatta per la scusa di tre tedeschi, ma non era così, perché a loro gli serviva la mano d'opera. Capito? Certo, il Quadraro era a quell'epoca considerato dai fascisti e poi dai tedeschi un covo di sovversivi, allora, così venivano chiamati, insomma. E quindi, diciamo, l'occasione è stata proprio preziosa per loro, perché gli ha permesso di fare un'azione così brutta, così crudele, del rastrellamento, quasi con un attenuante, insomma. La cronaca di quel 17 aprile del 44 è scandita dall'ansia. I 1000 rastrellati al Quadraro vengono trasportati nella vicina Cinecittà, dove è insediato il quartier generale della 14ª Armata della Wehrmacht. Dopo pochi giorni e una prima lenta scrematura, il gruppo, circa 900 persone, viene fatto salire a bordo di una colonna di camion. Destinazione ignota. Alda Giacopetti, abitante del Quadraro. Quando è stato il momento che l'hanno caricato sui camion, sono usciti da Cinecittà, andavano a Passo Domo. Volevano proprio farsi vedere bene che facevano tutto il lavoro. Mio padre stava proprio al primo camion, ci ha visto, perché io ho chiamato papà. E allora lui non ha potuto muoversi, però con lo sguardo si è capito, insomma, che... Ci caricarono a tutti quanti, pigiati fino all'inverosimile, e ci portarono a Grotta Rossa. Grotta Rossa è una località a nord di Roma. Là ci fecero scendere da questi camion e ci infilarono tutti quanti dentro una grande grotta di pozzolana. E in piena oscurità, lì io mi vidi finito, senza 40 è finito, come tutti gli altri. Gli ingredienti per fare le fosse ardeatine 2 c'erano tutti quanti quella notte. I camion che erano in moto tutti quanti, che facevano un fragore enorme perché non si sentiva niente all'infuori dei camion. Noi dentro la grotta, i tedeschi armati fino ai denti, arrabbiati che a non più non posso, e noi pensavamo ormai per noi questa qui è finita. Tant'è vero che tra tutto il silenzio dentro quella grotta si sentivano dei pianti, si sentivano dei sospiri, si sentivano qualche bestemmia. Ormai noi eravamo considerati spacciati, perché per noi era finita. La mattina dopo, invece, il viaggio prosegue. Verso i primi di maggio, i rastrellati del Quadraro arrivano nel campo di prigionia di Fossoli, in Emilia-Romagna. Si tratta del principale punto di transito prima della deportazione in Germania. Ci sono oppositori politici, prigionieri militari e anche ebrei destinati ai campi di sterminio. Romano Levantini, abitante del Quadraro. A Fossoli, questi ebrei ci hanno rasato a zero, no? Erano E i miei fratelli, e il mio fratello ha riconosciuto e si è messo a parlare di uno di questi, perché i miei fratelli in Trastevere, prima della guerra, affittavano motociclette. Dico, ma come state qua? E dice, noi siamo ebrei. Beh, che c'entra che siete ebrei? Cioè, non c'era il concetto da parte mia, forse l'ingenuità, non lo so. Mentre a Fossoli, i rastrellati del Quadrare temono per la loro vita, a Roma la situazione sta cambiando. Dopo aver sfondato il fronte a Cassino, il 4 giugno del 44 gli alleati entrano a Roma mentre le truppe tedesche si ritirano. I reparti che 8 mesi prima hanno rapidamente occupato la capitale sono ormai un esercito demoralizzato e in fuga. I tedeschi erano, e non erano il classico tedesco nazista che noi avevamo conosciuto, sempre impeccabile nella divisa, ma erano uomini distrutti, con la barba, stanchi, che si ritiravano. I partigiani entrano in azione in tutta la città attaccando le retroguardie tedesche. Al Quadraro, la banda Basilotta cattura una squadra di soldati. Così l'ex partigiano Gioacchino Basilotta ricorda quei momenti. Il cannone era al di là della strada. Noi siamo scivolati in silenzio alle loro spalle, siamo riusciti a coglierle di sorpresa, abbiamo preso prigionieri gli uomini e ci siamo impadroniti del cannone. I prigionieri vengono fatti sfilare per il quartiere e consegnati agli alleati. Il 4 giugno gli alleati entrano nel centro di Roma. Gli alleati, sono arrivati gli americani, sono arrivati gli americani. Tutti siamo usciti dalle case. Io mi sono avvicinato verso il Colosseo e a un certo punto, non lo so perché, qualcuno disse: non sono gli americani, ma sono gli tedeschi travestiti da americani. Ma tu pensa a questa gente che pazza, che in certi momenti gli viene in mente, tutti scappano. Poi dopo, ma questi gli americani che erano armati, erano diversi, insomma. Poi veramente ci fu la grande gioia della liberazione. C'era tanta festa, le ragazze si buttavano sui camion dei rose che arrivavano, no? Per festeggiare. Poi in realtà c'era anche un altro fatto, era arrivato pure da mangiare, perché questi ti davano cioccolatine, noi ragazzini capiamo, ci sembrava un sogno. A Roma è festa grande, a Fossoli invece tra i deportati del Quadraro regnano sconforto e rimpianto. Sono stati catturati quando mancava meno di un mese e mezzo alla liberazione di Roma. Giunti in Germania, i deportati vengono divisi in piccoli gruppi e instradati ai loro nuovi posti di lavoro. La fabbrica si chiamava Otto Schickert, nei paraggi di Hannover. E quando arrivavamo là, trovavamo una fabbrica enorme, ma una fabbrica grandissima, io ho mai visto in Italia una fabbrica del genere, con altrettante persone come al campo di concentramento di Fossoli, con 7-8 mila persone, era un formicaio. Molti vennero dispersi in Germania in attività molto diverse fra loro, fra attività agricole e attività industriali. Alcuni subirono dei trattamenti tutto sommato accettabili, altri soffrirono di più. Quindi la vicenda dei rastrellati è una vicenda molto varia e complessa. Diverse sorti dunque per lo storico Vittorio Vidotto, ma per tutti un'odissea, un viaggio all'inferno che però, a differenza di quanto accaduto a milioni di altri deportati, per gli abitanti del Quadraro ha in serbo un lieto fine. L'8 maggio del 45, infatti, la Germania nazista sigla una resa incondizionata. La guerra è finita e per oltre 1 milione di lavoratori forzati è l'ora di tornare a casa. Gli americani ci dissero: quello è il vostro treno. A me mi è preso in colpo. Un'altra volta che li tradotte questi. Ma ci devo andare a casa, ci vanno a viaggiare qui i treni merci. Ebbene, però rimasi contentissimo quando vidi che i carri bestiami avevano stavolta i portelloni aperti. La motrice di questo treno non era rivolta verso nord, ma era rivolta verso sud, al che significava per noi Italia, al che significava per noi Roma, perché significava per noi Quadraro. Con la fine della guerra inizia il lungo viaggio di ritorno verso casa. Ognuno si arrangia come può. C'è chi viene inviato via in treno, chi percorre centinaia di chilometri semplicemente a piedi. C'è chi impiega pochi mesi, chi più di un anno. E non so come è stato, non so com'è. Io sono sceso dal tram, avrò fatto 200 metri, 300 metri, lì c'è stato un passaparola fenomenale, che è stato un passaparola più svelto dei telefoni di oggi, che io mi sono trovato, mia sorella e mia madre incontro a me. Quando mio padre è tornato, io dicevo sempre: Signore, fa che mio padre ritorni almeno per giorno, perché dopo mi sono resa conto che mio padre non stava qui a Roma, che non stava in Italia. E man mano che uno cresce è normale, no? E speravo che venisse, che tornasse per la mia prima comunione, infatti così è stato. Lo vedo venire con uno straccio addosso, una giacchettaccia. E da lontano ho detto: ma quello è mio padre, perché mica sapevamo niente. E infatti era proprio il giorno di San Giovanni. Per noi è stato uno shock vederlo così, ridotto pelato in questa maniera, partendo con tanti capelli. Mio padre era bello piazzato allora, però è ritornato che non si conosceva. La prima cosa che mi disse, dice: non mi fate più le patate. È stata una gioia immensa. Era talmente bello sapere che si ritornava a casa. Gli ex deportati riprendono la loro vita dove era stata interrotta. Sulla loro storia per molti anni scende il silenzio. Ancora oggi nessuno sa dire quanti di loro non sono più tornati.